Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buonasera e ben ritrovati a Radio Doc. Vi proponiamo un radiodocumentario dedicato ai tatuaggi, un antico rito tribale praticato in tutto il mondo. Avere un tatuaggio o pensare di farsene uno non è un gesto isolato. Più di 40 milioni di americani oggi hanno un tatuaggio, un numero 4 volte maggiore rispetto a 50 anni fa. Ogni cultura ha le proprie tecniche, molte delle quali dolorose. Insieme a Craig Reynolds faremo un viaggio intorno al mondo alla scoperta dei tatuaggi più antichi, per conoscerli, apprendere le loro origini e capire perché questi riti tribali hanno conosciuto una tale esplosione culturale. Vi segnaliamo che la versione integrale del documentario che state per ascoltare andrà in onda su History Channel venerdì 15 maggio alle 15:05. La mia ricerca inizia in quella che è considerata la terra più isolata del pianeta, la Nuova Zelanda. Questa è la culla dei Maori, famosi per l'orgoglioso spirito guerriero e gli eccezionali tatuaggi del volto. Gli inglesi, arrivati qui nel XVIII secolo, cancellarono quasi del tutto questa tradizione unica. Siamo ad Auckland, la capitale della Nuova Zelanda. Gli antichi disegni del volto, nati quasi 1000 anni fa, sono ormai scomparsi. Ma da poco questa antica forma d'arte è stata riscoperta, grazie ad artisti come Chu Dulei. Quest'artista sta riportando in vita il tatuaggio facciale tipico dei Maori. Il tradizionale tatuaggio Maori, con spirali e linee curve, si ispira interamente alla natura. Ogni disegno ha un significato specifico. Questa tradizione del tatuaggio potrebbe sembrare moderna, in realtà risale a più di 1000 anni fa, quando i marinai delle isole del Sud Pacifico migrarono in quella che oggi è la Nuova Zelanda. I tatuaggi sul corpo si sono evoluti fino a privilegiare il disegno facciale, chiamato moko. Ogni moko comunica informazioni dettagliate sulla persona che lo porta, la sua famiglia e il suo rango. Per le donne il moko è un ornamento, per gli uomini è il tradizionale segno di riconoscimento dei guerrieri. L'atteggiamento dei Maori nei confronti dei nemici era unico. Le teste dei caduti venivano mummificate per onorare il loro coraggio. La vita dei Maori cambiò drasticamente quando iniziarono ad arrivare i primi esploratori inglesi nel Sud Pacifico, alla fine del 1700. Era la prima volta che degli occidentali vedevano dei tatuaggi e rimasero affascinati dai tatuaggi del volto, al punto da arrivare a collezionare le teste degli indigeni come ricordo o merce di scambio per l'acquisto di armi. Questa pratica degenerò molto presto. Gli inglesi decapitavano i Maori con i moko unicamente per vendere le teste ai collezionisti europei. Alla fine del 1800, i Maori smisero di farsi i moko. Questa forma d'arte scomparve, sopravvivendo solo nei villaggi più remoti. Ma negli ultimi anni si è assistito ad una rinascita del moko. Alcuni giovani li hanno recuperati per onorare i loro antenati ed esprimere l'orgoglio Maori. Il moko è riservato ai soli Maori. Averne uno senza essere Maori viene considerato molto offensivo. Lo strumento tradizionale Maori per il tatuaggio è uno scalpello con la punta piatta. Il disegno viene scavato nella pelle. Quando la ferita guarisce, viene riaperta. Si forma così una cicatrice che viene riempita con inchiostro ricavato da linfa di piante e fuliggine. Chu è uno dei pochi tatuatori a combinare la tradizione con le odierne tecnologie. I disegni sono antichi, ma gli strumenti sono moderni. I riti dei Maori sono molto antichi. Si pensa che i loro tatuaggi siano stati introdotti dalle antiche popolazioni polinesiane 2000 anni fa. La nostra prossima fermata è il punto settentrionale del triangolo polinesiano, le isole Hawaii. Il tatuaggio tribale hawaiano è molto simile al moko neozelandese. Sono entrambi originari della cultura polinesiana, i cui navigatori si insediarono per primi su queste isole. Anche questa è un'antica arte che gli artisti del tatuaggio vogliono riportare in vita. I tatuaggi tradizionali polinesiani sono realizzati a mano, con strumenti ricavati da ossa di animali. Credetemi, sono molto dolorosi. Qui incontro il tatuatore Aisea Suluape Toetuu, che mi spiega lo stile dei suoi tatuaggi. I tatuaggi del mio corpo si chiamano nuovi tribali. Sono l'antico segno polinesiano di protezione, aggiornato ai nostri tempi. Per i polinesiani i tatuaggi non sono mai stati un mero ornamento. Essi definiscono il ruolo di ognuno nella società, indicano l'identità, il mestiere, le battaglie vinte e gli uomini uccisi dai singoli membri di una tribù. Inoltre ritengono che il tatuaggio sia come uno scudo che protegge dal dolore fisico e dagli spiriti maligni. Per un adolescente, avere il primo tatuaggio segna il passaggio dall'infanzia all'età adulta. È un segno di trasformazione. Il ragazzo non appartiene più a sua madre, è un uomo e partecipa alle attività degli uomini, la caccia, la pesca e l'agricoltura. Mi spieghi lo stile dei tatuaggi polinesiani? In Polinesia viene usato un pettine d'osso fissato ad una bacchetta che fora la pelle introducendo il colore. È sempre stato realizzato così. I tatuatori polinesiani impiegano un pettine che si chiama nifo. Ogni pettine è lungo da 2 a 5 cm e ha dai 30 ai 40 denti. Oggi sono in metallo, ma in passato questi pettini erano ricavati dal becco degli uccelli, denti di cinghiale o cirri di pesce. Fissato a una lunga bacchetta di legno, il nifo viene battuto con un'altra bacchetta che introduce l'inchiostro nella pelle, ottenuto dalla lavorazione della noce di cocco. Oggi Aisea tatuerà un abitante del posto di nome Paca. Gli farà un tatuaggio tradizionale che si chiama Pea. Dove glielo farai? Questo tatuaggio va dalla vita fino alle gambe, sotto alle ginocchia. È molto grande. Ci vogliono mesi, e a volte anni, per completarlo. È un processo molto lungo, impegnativo e doloroso. Molto doloroso. Un Pea non è un tatuaggio normale. Serve a celebrare le tappe importanti della vita. I polinesiani hanno un legame molto spirituale con la natura e cercano di esprimerlo attraverso i tatuaggi. La tradizione polinesiana dei tatuaggi risale a più di 2000 anni fa. Ma quali sono i tatuaggi più antichi? Negli ultimi 30 anni, gli archeologi hanno scoperto mummie tatuate, alcune risalenti a più di 5000 anni fa. Ora vado in Louisiana per vedere alcuni di questi antichi tatuaggi con i miei occhi. Mummie tatuate sono state rinvenute ovunque. In Egitto, in Perù, in Siberia. Questi reperti archeologici hanno fatto il giro del mondo e io vado a vederne uno proprio qui, a New Orleans. Il dottor John Verano è un antropologo fisico alla Tulane University, specializzato in antichi reperti. Nel 1984, sulle montagne del Perù settentrionale, lo studioso ha scoperto questo. È un braccio destro. Appartiene a una donna morta circa 1000 anni fa e seppellita nell'arido deserto vicino alla costa. Sulla sua pelle si sono conservate le tracce di quello che doveva essere un tatuaggio, che le arriva fino alle dita. Questo stadio di conservazione è molto raro, perché di solito la pelle non si conserva. La maggior parte dei resti a nostra disposizione sono scheletri. È una fortuna per noi. Questa è un'importante scoperta. Il braccio è ricoperto di quelli che sembrano disegni. Ma dopo essere rimasto 1000 anni in un deserto del Perù, il reperto è difficile da analizzare. Ad occhio nudo è impossibile stabilire di quali disegni si tratti o se siano proprio dei tatuaggi. Il dottor Verano spera che dalla sua analisi riesca a capire perché quella donna portasse quel tatuaggio e quindi che posto occupasse nella società. Ma la donna di Lambayeque è solo una delle tante mummie tatuate rinvenute in tutto il mondo. 7 anni dopo la scoperta peruviana di Verano, viene effettuato un ritrovamento ancora più straordinario. Questa è particolarmente interessante perché è una delle mummie meglio conservate che siano mai state ritrovate. Nel 1991, in Italia, alcuni scalatori sulle Alpi Venoste si imbattono nei resti di un cacciatore dell'età del rame, ucciso da una freccia più di 5000 anni fa. È stato chiamato l'uomo di ghiaccio. Gli studiosi hanno rilevato preziose informazioni sulla sua pelle, 59 tatuaggi formati da croci e linee. Uno degli elementi più interessanti è che i tatuaggi sono distribuiti in tutto il corpo. Anche sulla schiena c'è una serie di tatuaggi. Ne ha persino uno sul ginocchio. E la cosa più interessante è che quest'uomo non è stato sepolto. Non l'abbiamo trovato avvolto in un sudario. È morto in circostanze violente, forse. I suoi resti sono l'istantanea del giorno in cui è deceduto. Ma gli studiosi non sanno cosa significhino quei tatuaggi. La cosa che mi interessa maggiormente è la posizione dei tatuaggi. Molti di essi non sarebbero stati visibili perché coperti dagli abiti, come quello alla schiena, al ginocchio e alle caviglie. Dalle radiografie effettuate sul corpo è emerso che l'uomo soffriva di artrite alla schiena, al ginocchio e alla caviglia. Da questo si potrebbe logicamente dedurre che quei tatuaggi servissero a scopo terapeutico. Magari toccandoli servivano ad alleviare il dolore, a dare un po' di sollievo, come quello a forma di croce sul ginocchio. Oppure avevano un significato magico o religioso. Sia l'uomo venuto dal ghiaccio che la donna Lambayeque in Perù gettano una nuova luce sui tatuaggi delle popolazioni preistoriche. Ma sebbene quei marchi fossero indelebili e si siano conservati per migliaia di anni, non conosciamo le tecniche con le quali venivano realizzati. Ma una di queste antichissime pratiche ci è nota. Alcuni popoli si cucivano i tatuaggi sulla pelle. Prove di tatuaggi operati in questo modo sono state rinvenute in Asia, Sud America e nell'Artico. Gli esploratori europei videro la prima volta questa pratica nel 1700, viaggiando con le tribù Inuit. Gli Inuit impiegavano aghi di osso e fili ricavati da tendini di animali immersi nella fuliggine. L'ago veniva fatto passare sotto la pelle e il filo lasciava il segno. Poi la ferita veniva premuta per non far spostare il pigmento. Per assistere a questa pratica vado a Santa Barbara, in California. Sto per incontrare Chris Helland, conosciuto come il professore tatuato. I tatuaggi erano una pratica comune in Nubia, proprio a sud dell'Egitto. Il dottor Chris Helland è professore di sociologia e ama i tatuaggi. E non solo fa lezione sull'argomento, ma ne ha anche molti. Io e Chris incontriamo Colin Dale, uno dei pochissimi tatuatori al mondo a praticare il tatuaggio cucito. Per affinare questa tecnica, Colin si è dapprima documentato su antichi testi, ma poi ha dovuto praticare questa dolorosa procedura su se stesso. Chris Helland, il professore tatuato, si spinge indietro nel tempo. Molto indietro. Si sta facendo fare un tatuaggio letteralmente cucito sulla pelle. Quest'antichissima tradizione artica è praticamente scomparsa nel secolo scorso. Colin Dale l'ha riportata in vita, ma pochi sono in grado di sopportarla. Per motivi igienici, Colin non userà i tradizionali strumenti Inuit, cioè ossa e tendini di animale, perché non possono essere sterilizzati. Quando vengono lavati, questi strumenti diventano molli. Però io impiegherò acciaio inossidabile e fili di cotone. Per l'ultima parte del disegno, Colin usa lo stesso strumento che avrebbe impiegato un tatuatore dell'età della pietra. Un frammento di roccia. È come tornare alla preistoria. È un frammento. Non opero dei tagli sulla pelle, non uso la parte tagliente. E uso un frammento appuntito in modo da fissare bene il pigmento. È una tortura che dura 3 ore. Ma alla fine, il tatuaggio è completo. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario. Siamo arrivati a metà del nostro viaggio. In ogni posto che abbiamo visitato abbiamo trovato tatuatori che praticano tradizioni ormai quasi scomparse. Ogni cultura ha una storia diversa, ma lo scopo è lo stesso: preservare il passato degli antichi tatuaggi. La nostra prossima tappa è il Giappone, dove i tatuatori hanno da sempre dovuto esercitare la loro arte in clandestinità. Le autorità, infatti, cercano da sempre di eliminare la tradizione dei tatuaggi, segno distintivo della Yakuza, la mafia giapponese. Gli incredibili tatuaggi integrali sono riusciti a sopravvivere rimanendo un segreto. Andiamo a scoprire perché i tatuaggi fossero illegali e perché possono ancora creare problemi a chi li porta. In molte parti del mondo i tatuaggi sono considerati un segno di bellezza, ma qui in Giappone per quei tatuaggi potrebbero cacciarvi da una piscina o da una stazione termale. A causa del legame con la Yakuza, i tatuaggi sono un tabù. La Yakuza, o mafia giapponese, è una potente organizzazione criminale che opera in Giappone da secoli. Per i giapponesi, la Yakuza è fonte di paura, violenza e morte. Ma la Yakuza ha anche fatto proprio uno stile di tatuaggi che ha influenzato artisti di tutto il mondo. Per essi il tatuaggio è un segno di riconoscimento e ribellione contro la società. E il più diffuso è quello integrale, l'orimono. I classici tatuaggi giapponesi sono delle enormi opere d'arte. Gli intricati disegni coprono ogni centimetro quadrato di pelle che di solito viene celata sotto gli abiti. Questa forma d'arte un tempo era illegale, ma si è sviluppata in clandestinità per oltre 400 anni. Sebbene i tatuaggi siano stati legalizzati dopo la Seconda Guerra Mondiale, hanno ancora delle connotazioni sinistre a causa del loro legame con la Yakuza. Il legame dei tatuaggi con la criminalità risale al 1600, quando la classe al potere giapponese iniziò ad usare i tatuaggi come segno di punizione. I criminali mandati in prigione venivano tatuati sulla fronte o sulle braccia. Quei segni indelebili rendevano il detenuto un escluso della società. Con l'aumento dei criminali tatuati, questi uomini intoccabili iniziarono ad unirsi in bande. Con il tempo vennero conosciuti come Yakuza, che originariamente era il termine per designare il punteggio più basso in un gioco di carte. I membri delle bande cercavano di coprire i tatuaggi infamanti facendosene fare altri, finché tutto il corpo non veniva ricoperto di colorati disegni. Un tatuaggio integrale richiede centinaia, migliaia di ore di sedute. E si conoscono anche macabri risvolti di questa pratica. In alcuni casi la pelle della persona tatuata veniva rimossa dal cadavere dopo la morte dell'uomo. La cosa più inquietante è che veniva venduta al mercato nero. Uno dei pochi posti dove poter ammirare delle pelli umane esposte è l'Università di Medicina Jikei di Tokyo. Il dottor Osamu Fukushima è il responsabile di questa collezione medica. È una vista sconvolgente. Una pelle umana staccata dal corpo con un taglio singolo, essiccata e conservata integra. A quanto pare questo non è l'unico esemplare esistente. L'Università di Tokyo avrebbe decine di questi campioni non esposti al pubblico. E in molti sostengono che il commercio di pelle umana tatuata sia ancora praticato, anche se oggi è illegale. Ma nessuno, nemmeno il dottor Fukushima, è disposto a parlarmi di questo. Ma non tutti i tatuaggi in Giappone sono oggi legati alla Yakuza. Le generazioni più giovani si accostano ai tatuaggi alla maniera occidentale. Andiamo in un moderno negozio di tatuaggi che si chiama Inkret, per scoprire perché queste persone vogliono farsi un tatuaggio quando la società associa ancora questa pratica alla criminalità. Ma è difficile avere un tatuaggio quando questi disegni vengono associati alla Yakuza. Beh, un po' sì. Quando hai un tatuaggio è difficile fare cose normali, come andare in piscina o persino trovare un lavoro. Questa discriminazione persiste. Cosa succede quando chi ha un tatuaggio si reca in piscina o alle terme? Se chi ha un tatuaggio va in piscina, l'addetto all'ingresso sì. Dirà sicuramente va via. Davvero? Sì. La cura che i giapponesi mettono nei loro tatuaggi è straordinaria. La tradizione criminale nella quale sono nati ha portato allo sviluppo di una bellissima forma d'arte underground. Il Giappone è un paese dove tradizione e modernità viaggiano a braccetto. Ora sono a Yokohama, una città molto moderna, per incontrare un uomo che molti considerano il più grande artista di tatuaggi tradizionali giapponesi, Oriyoshi Terzo. Oriyoshi Terzo è un tatuatore di serie A, ha clienti che vengono da ogni parte del mondo. È considerato uno dei migliori artisti del paese. Oriyoshi opera quasi esclusivamente sui tatuaggi integrali. I suoi elaborati disegni coprono tutto, tranne le mani, i piedi, il collo e il viso. Ripropongono classici simboli giapponesi come samurai, geishe e tigri. Questi tatuaggi richiedono anni di dolorose sedute per venire ultimati. Oriyoshi stima che per tatuare un tradizionale guerriero giapponese impiegherà circa 2 anni. Oriyoshi, inoltre, è anche uno dei pochi artisti ad usare ancora il classico bastoncino tabori. Ricavato originariamente dal bambù, oggi il bastoncino tabori che impiega è in metallo. Ogni bastoncino ha 36 aghi all'estremità. Dopo averli immersi nel pigmento, il tatuatore fa entrare gli aghi nella pelle obliquamente, con una frequenza di 90-120 colpi al minuto. Il tatuatore deve impiegare esattamente la stessa quantità di forza ad ogni colpo, altrimenti il colore non si distribuirà in modo omogeneo. È una tecnica che richiede un'incredibile precisione, sangue freddo e concentrazione. Questo metodo è talmente doloroso che il corpo, durante le sedute, rilascia molta endorfina per alleviare il dolore. Da Tokyo ci rechiamo a Phoenix, Arizona, per vedere alcuni tatuaggi criminali da vicino. Uno dei luoghi in cui c'è un vero proliferare di tatuaggi è anche un posto dove è illegale farseli. Ho sempre sentito dire che i tatuaggi sono molto diffusi nei penitenziari. Chi è stato dentro asserisce che un tatuaggio in prigione può farti restare vivo. o decretare la tua condanna a morte. Per scoprire il vero significato dei tatuaggi dei detenuti, andiamo al penitenziario della contea di Maricopa, uno dei più duri del paese. I tatuaggi non solo istigano alla violenza fra bande, ma sono anche un grosso rischio per la salute. Ma è chiaro che la salute non è la prima preoccupazione di un detenuto. Alcuni tatuatori qui realizzano i disegni con tecniche estremamente rudimentali. Il sergente Larry Irby mi spiega i rischi dei tatuaggi in prigione. Ci sono molti casi di infezioni. Sì, ne vediamo di continuo. In quei casi perquisiamo le celle, ma non sempre riusciamo a trovare l'ago. L'altro giorno ci sono capitati due tizi con dei tatuaggi, uno sulla mano e l'altro all'interno del braccio, pieni di pus e infetti. Non usano strumenti sterilizzati? No, no. Non cambiano nemmeno gli stencil? Con questi tatuaggi molti si sono trasmessi il virus dell'AIDS. Nonostante i rischi per la salute e i controlli ufficiali, i tatuaggi in prigione continuano ad essere molto frequenti. Molti tatuaggi fatti qui dentro sono di altissimo livello. Spesso si tratta di opere d'arte, meglio di quelli che si possono avere nei negozi specializzati, pagando molti soldi. Il rispetto dei tatuaggi fa parte del codice d'onore dei detenuti. Ma prima di poterne avere uno, bisogna guadagnarselo. Assalendo o uccidendo un altro detenuto. A Maricopa molti tatuaggi sono legati a bande, come la mafia messicana e la fratellanza ariana. Le guardie devono sapere interpretare i tatuaggi. Ho scoperto che i tatuaggi non sono dei meri segni superficiali sulla pelle. Hanno molti significati, profondi e variegati. Simboleggiano le fasi importanti della vita e nell'ambito della comunità di origine e incarnano una cultura e un'appartenenza. I tatuaggi sono il denominatore comune di popoli diversi in continenti diversi, distanti migliaia di chilometri. Dalle antiche mummie ai soldati dei nostri giorni, dagli antichi riti tribali alle ultime tendenze della moda, i tatuaggi sono una forma universale dell'espressione umana. Ogni tatuaggio è un'opera d'arte, è un simbolo che racconta la storia dell'uomo. Prima di chiudere, vi segnaliamo che la versione integrale del radiodocumentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel venerdì 15 maggio alle 15.05 con il titolo Tatuaggi storici. Un ringraziamento in redazione a Daniele Casagrande. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.